www.radio3pod.rai.it. Prima l'uovo, la gallina, le penne o i calamai. La fabbrica di polli produce, non chiude, non chiude. La fabbrica di polli produce, non cuoce quasi mai. E mentre nella fabbrica di polli i danni del surriscaldamento del pianeta non si sono ancora avvertiti, Kappa e Drago ricordano un particolare. Ma Kappa, che fine avrà fatto il pulcino Joao? L'abbiamo salvato sì dalla decapitazione, però l'abbiamo liberato in mezzo a quel traffico infernale sulla tangenziale est. Tu l'hai liberato. Vabbè. Comunque, Darwin direbbe che sono solo cavoli suoi e che se ce l'ha fatta buon per lui. Quindi... Direbbe così? Sì, più o meno. Le probabilità di farcela però per un pulcino inesperto, affamato, denutrito come Joao erano pochissime, dai. Vabbè, ma adesso cos'hai? Sensi di colpa? Cosa potevamo fare più di così? No, no. Lascia. Niente, io tutto sommato, se ci penso, mi sento a posto con me stesso. Il senso di colpa non esiste più. Ma cos'è? Sono Mailer Demon! E che cosa ci fai qui? Rieccovi il vostro pietoso pulcino! E dategli da mangiare, che fa pena! Joao! Ho tanta fame! Io sono Mailer Demon, l'incubo di ogni spedizione! Volete allontanare qualcosa? Qualunque cosa da voi? Incrociate le dita e sperate per il meglio, perché potreste incontrare sulla vostra strada... Mailer Demon! Il re della rottura di balle! Maledetto! Stavolta me l'hai fatta! Ma ricorda che io sono Error 404! E il mondo è ancora saldamente nelle mie mani! Continua a crederci, rottame che non sei altro! Tu appartieni agli albori del web! I tuoi giorni sono contati! Illusioni, sbruffone che non sei altro! Ah sì? E allora beccati questo! E questo! E tu questo! Ma io sono Mailer Demon! E io sono Error 404! E allora beccati questo! Fame, povero Joao. E tu, Pollo, ricordati, Dio è stato generoso con te. Ti sta dando ora la tua occasione di riscatto, quindi cerca di usarla bene. Sentite un po'. Ma vi interessa comprare Joao per mangiarvelo? Ma no, ma... pochi centesimi ve lo do. Allora, Kappa, è inutile. Questo Pollo è fuori dal seminato. Ma cosa vuol dire seminato? No, non lo sa nessuno. Sono solo cose di Drago. Fuori dal seminato, sì. No, perché se vi interessa qualcosa di Joao, tipo come oggetto sessuale... Ma cosa dici? Problemi non ce ne sono, Ma Pollo! Cioè, anche qui pochi centesimi e siete a posto, Pollo! Aia! Campagna Save Joao 2007. Un successo. La fabbrica di polli si sente da lontano il sordido richiamo d'una vita in batteria. Acqua. acqua. Oh, grazie. Grazie. Ma chi sei? Ingoiatete. Come? Ingoiatete. Cioè, ti chiami Ingoio Tutto? Beh, allora, grazie, Ingoio Tutto. Non è Ingoio Tutto in generale. Io amo Ghele. Amo Ghele. Drago! Oh, ma da dove arrivi, Drago? Cappa? Cosa c'è? Drago, cosa c'è? Sei tutto io credo... pallido. Drago, io credo che Amoghele mi stia chiamando a sé, capisci? Sì. No, cosa ho sì? Cos'è ho sì? Drago, io l'ho visto, gli ho parlato. Ma per carità, Cappa, dai, non ti lascerò certo da solo a impazzire per una normale crisi mistica di mezza età. Tu non mi puoi capire, Drago. Ma come non posso capire? Perché io ho un'altra versione di me stesso, che in questo momento è steso morente al sole del deserto e lui mi ha dato da bere, capisci? Lui mi ha dato, nel senso, ha dato da bere alla mia altra versione stesa morente nel deserto. Lui è arrivato e mi ha dato da bere, nel senso mi ha dato da bere alla mia... Capisci quello che dico, Drago? Sto capendo. Allora, e quindi... mi ha aiutato a riprendere il cammino, ma capisci? Ma lui chi? Lui Amoghele? Ma lui Amoghele! Lui mi guardava con un'espressione colma di bontà, Drago, e diceva... Ingoio tutto. Come le nigeriane lungo le statali. Drago, come osi? Dai, scusa, lo sai che io ho poca esperienza in campo religioso. Sì, no? E tanta nel campo delle nigeriane lungo la statale. No, quello che dici è falso e mi offende anche. Sì. Se permetti. Dove eri ieri sera? Ehi, tu! Oggi devi tirar su almeno 500 euro, se no il passaporto te lo sogni. Amoghele, l'apostolo nero, mi ha salvato dalla morte e ora mi chiama a sé. No, ma dai, Cappa, guarda che sei solo un po' stanco. Su, dai, non pensarci. Drago, io ho visto la luce nel viso di Amoghele. Ma com'è possibile? Dai, è noto che il nero assorbe la luce. Sì, adesso magari mi spieghi anche le particelle, eccetera. Drago, sta zitto. Sta faceva, zitto. Eh? Il suo volto nero, tu non l'hai visto, ma io sì. Emanava una luce soffusa, capisci? Una specie di aura. Soprattutto quando sorrideva. Ah, beh, ma allora erano i denti. È inutile, è inutile. Tu insisti con tutti i luoghi comuni, sui neri, su quelle cose lì, sperando che io non me ne accorga. Ma Drago, sei... Non spero affatto che tu non te ne accorga. E allora smettila, per favore, perché offendi la mia religiosità, eh? Ah sì, la tua nota religiosità. Drago, certo. I tempi sono maturi per fondare la chiesa di Amoghele. E io sarò il suo rappresentante in terra. E io? Tu sarai il mio braccio destro. Dai, ma io non ho avuto la rivelazione. Non sono convincente come capo religioso. Ma infatti sei il braccio destro. Stanco del solito cristianesimo? Ora pro nobis. Dopo 2000 anni senti che è il momento di cambiare? Alleluia. Ormai reciti le preghiere in automatico senza capire le parole? Ave Maria, piena di grazia, Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne. Allora sei alla ricerca di Amoghele. Amoghele. Chiesa di Amoghele. Aria fresca nel tabernacolo. Chi è stato? La fabbrica di polli. Pronto, chiesa di Amoghele? Siete impazziti. Chi parla? Voi siete impazziti. Adesso vedrete che casino. Ma cosa vuole? Chi parla? La chiesa di Amoghele non sa da fare. Ma guarda che io sono solo l'addetto stampa, non me ne frega niente dei contenuti, io divulgo e basta. Sì. Come i webmaster che copiano e incollano i testi che gli dai senza sapere nemmeno cosa stanno copiando e incollando. Presente? Ecco, io sono a quei livelli lì di benefreghismo. Sì, ma che me frega a me? Ridete pure, divertitevi. Ma sappiate che San Paolo non vede di buon occhio questa chiesa di Amoghele, perciò si regolassero. Ma chi? Che cosa succederà adesso? Nuvoloni neri, carichi di guai, si stanno addensando sul capace terrazzo catramato della fabbrica di polli. Ma la coibentazione reggerà alle insindacabili sferzate della provvidenza? Lo scoprirete solo lunedì a mezzanotte su Radio 3 per il prossimo semi-blasfemo allestimento de... La fabbrica di polli produce, non chiude. Fabbrica di Polli, un programma di Cappa e Drago prodotto dall'Istituto Barlumen con Guido Bertolotti, Alberto Caserini. Giovanni della Morte, Luca Gemma. La fabbrica di polli è trai.it, barlumen.com.